faccia nostra, ha pagato, sì, tutte quelle cose la facciano anche a figlio, infatti poi io continuo a voler fare così. Avanti, a chi spetta, perché dallo diritto, interessante come succede, ti appassiona molto la bicicletta, è vero. Aspetta, se non si riparti, ui, ma faccio le volte ci vuole, vabbè, dai, c'è una cosa salutare. Il problema è che bisogna stare molto attenti in bicicletta, perché le macchine, ui, non rispettano nulla, e occhio, state attenti, adesso vabbè, ci sono le piste ciclabili, utilizzate quelle. Allora, troppa di giri, e non ti sta, ebbene, Usacchi si non è pieno, non sta di piedi, ti ha visto. Sono corte che avanti. E vabbè, dai. Dai, è un bello sport. Anche Eugenio lo fa, Eugenio, quello di Pontotone, lo fa. Bicicletta faccio tu, lo stesso. Kappa. Andava, avanti a chi tocca, Riccardino, riprendi e poi fai girare per pubblico. Riccardino non riprende, riprendi il pubblico. Non lo so, bisogna provare. No, dipende sempre dall'apparato che li metti. Se li metti apparati omologati, no, se li metti apparati di quelli modificati che possono dare problemi perché sono, hanno doppio modulatore, eccetera, eccetera, è sfolta, capito? No, non ho provato. Comunque, quello lì l'ho provato con l'alimentatore, con 2 ampere, va, che ha pagato. Possiamo provare perché c'è un riduttore da centisigari a cosa, come si chiama? A bananina. Sì, apparecchia le bananine, quindi c'è un riduttore da centisigari a bananina. Mi sono arrampato un attimo, chi c'è rimasto? Io, che ho dato il genito e cose. Poi non so se ci sia Luca ancora, Luca ci sia. No, Luca non c'è più, dai. Vabbè, là, riprendi. Riccardino è entrato, ho sparato, adesso lo riprendo. Riprendere a me, ok, no, stavo guardando un attimo una cosa al computer. Ah, ti ricevi un giorno? La vecchiaia, te l'ho detto, non ci so, non mi ricordo più niente, devo mettermi e... non so cosa mi sta succedendo in questi giorni, studierò troppo, ho già. È ciò che gli ho detto io. ma cosa ne so, perché oggi praticamente siamo entrati 10 minuti dopo perché il cancello era chiuso e quindi poi 10 minuti a sistemarci, ok, poi c'erano alcune professoresse che urlavano con la bidella, non ci si concentrava, e poi c'erano auto che suonavano e quindi abbiamo riflettuto per meno di mezz'ora e ci aveva dato 4 pagine di compiti, però non so com'è andata, ci deve ancora dare i risultati. Dopo che già ha detto Riccardo che se comincia ad essere ricoglionito, rimbambito anche ha detto, rimbambito, non voglio dire cose che non so, ha detto figurati se comincia adesso. E hai ragione. Dopo che già ha detto che compito era? Matematica, la grammatica inglese, queste cose che ci chiedeva one and once, poi ci chiedeva dei divieti, queste cose. Ha copiato pubblico. Come siciliano? Kappa. Così almeno li capiva. Avevano seminato in America e poi sono scappati così. Ho capito. Avanti, riprendete voi che mi ha sentito un attimino, dai, avanti Riccardo. Ehi, appunti, ora faccio la parola a Claudio perché mi mancano le idee. No, Claudio, stavo pensando a matematica perché devo fare degli esercizi, era d'inglese ed era la grammatica in inglese. Mio figlio si è diplomato quest'anno, che era lì. Ho detto che Marco, mio figlio, si è diplomato quest'anno. Invece io mi sono diplomato alle professionali, come salvatore elettro o sia cittadino. Ho fatto, vabbè, non è proprio diploma, è la specializzazione di 3 anni che ho preso. Bisogna essere portati per certe cose, lo studio è così. Se non sei portato è meglio mollarlo e cercare un lavoro. io mi fidi, tutti e due sono molto bravi. Manuela si è laureata, e Marco si è diplomato, adesso si sta iscrivendo all'università, si è iscritto, si è già iscritto. E vediamo un po' come va, ma è bravo. E Ottavio cosa, che lavoro sta facendo? Autista. Ehi, ehi, ma tutto l'anno lavora Ottavio, oppure sono restato? Ah, se chiude la scuola, allora lui si ferma, non può andare a prendere i ragazzi perché non vanno a scuola, è normale. Tutti i lavori un po' vanno, sono stati penalizzati, un po' tutti i lavori. Vabbè, mi fa piacere per Ottavio, avrei preferito che lavorassi all'Asta, magari, come stava pensando lui di entrare lì, ma già va bene lo stesso, dai. Ma infatti si deve provare, poi magari se ne ha qualche conoscenza da fare di più, però il ritardo è quasi tutto a conoscenza, come tutti i concorsi. Avanti ritardi, poi fai girare per un pomeriggio là. Positivo, sto provando questo microfono, vediamo come esce. Si sentite? Sì, ti sentiamo ritardo. È più cupo dell'altro, ma poi è squillante. Perché volevo provare anche questo Roger Beep che ha questo microfono che è bellino, mi. Ma quel microfono, il coso, non me lo vi. Quello che ti è arrivato con l'apparato che ti ho fatto prendere io. Ah, no, già, quello è attaccato al suo originale, quello non si muove da lì. No, non penso che sia l'originale dell'apparecchio questo, è un microfono a parte. È originale, no, non è originale, però è molto bello quello, va bene, è per quella radio, se quella radio fosse stata un 4 pinne l'avrei messo anche da qualche altro apparato, se non gli voglio cambiare i cablaggi. Quanti pinne? 5-6 pin, una cosa del genere. Non mi capi, non fai fare la tua parte, una prolunga da 6 pin che tu va a 4, lo sai? È che non trovo un attacco per fare l'adattatore, per il 4 pin ce l'ho, però per un altro adattatore per il 6 non lo stavo cercando, però non l'ho trovato. Da Fusano ce l'ha? No. Io l'ho preso a 7 da poco, ma se non lo so. No, Babbo ci è già passato l'altro giorno, e qualche giorno fa, non l'altro giorno, ha detto che che l'aveva chiamata prima e non aveva capito, e poi in passato ha detto che non ce l'avevano. E alla GPC? Boh, non ci sono passato perché bisogna andare un giorno, tutti i giorni, visto che c'è l'ufficio di Babbo, perché come sai lui non risponde mai al telefono. E lo so. Ah, magari in mezzo a tutta quella chiccaderia lo trova. Babbo. Avanti, un pomeriggio, avanti. Un pomeriggio! Beh, un pomeriggio ci sì. Forse avremo preso se ne capitare. Le 7 sono, cacciavite e va. Io l'ho ruggito, mi radio con cacciavite. Anche Radio Killer è bello. C'era quel Francesco, se non sbaglio, che si chiama Radio Killer, che è entrato qualche volta, abbiamo sentito sul 10 in propagazione. Sì, che c'è Radio Killer in continente. Mi sa che ha giusto anche Baratti. Sì, mi sembra che ha un Galaxy di quelli col frequentimetro. Però sì, poi arriva un bel ponte, quando parla lui non si sente altro, si sente solo lui. No, ancora è da sistemare. C'è il Petrus, c'è l'Excalibur, io ce l'ho, è questo con cui sto parlando adesso. Riccardo! Un attimo! Calmo, Dotti. Se la porto a fare, dico Dotti. Mai sentito. Dotti vuol dire dolce, vuol dire dolce e non essere acido. Comunque c'è propagazione, stiamo facendo una spazzolata, c'è sentito spagnoli, tutti di più. Sì, vero, è vero, non ha risposto, poi c'è andato a controllare, no, e deve essere che non ti aveva sentito. Da un attimo resto all'ascolto. Resta all'ascolto perché ogni volta che sono al barattino mi chiamano. Oi, oggi ci sono 3 canali occupati, sì, anche 23, c'è il 20, 23 e 10, e invece Ottavio non, vero? Tappa, il modulo peggio di me. Io ho il Magnum 980 e poi ho il Garage, poi c'è una stazione a base della Intec, c'ho l'Alan 48 modificato e poi c'ho, come si chiama, vabbè non mi viene questo qua come cavolo si chiama. Ecco, lo posso anche tu dire. Sai cos'è? L'unica cosa è che prende un po' di splatter. E qua c'è gente che modula vicino a me, quindi non fa attaccarlo a casa. Quello è bello per la macchina, anche perché c'ha tutte le manopole illuminate, c'ha la luce blu nello smitter che poi diventa rossa quando moduli. Insomma, c'ha un sacco di roba. Io ce l'ho omologato, c'è tutto omologato in macchina. C'ho un apparecchio che ho omologato, che però è un bel apparecchio della Intec ed è un portatile, l'ho messo provvisorio, lo metto, quando ne ho pure lo metto, c'è tutto quanto volante, attacco il CD sigari, metto l'antenna e vado al volo, e va benissimo. E beh, cioè io c'ho un Intec che ho omologato e quello lì se l'ho rifatto a Portottone da vicino a casa, Vabbè, si vede il mare, da vicino a casa mia si vede il mare, ma è lontananza. Eppure sono arrivato, dai. Ah, quello della Intec è che sono tutti molto buoni gli apparecchi. Io ho notato che vanno molto bene gli apparati della Intec. Io ho avuto anche l'FM500S, che gli avevo messo un microfono amplificato da drill, quindi che ci mette la batteria da 1,5 e spara a fuoco. Io più che altro faccio ascolto il PMR, entro pochissimo. Qualche volta faccio ascolto e basta, non mi interessa più di tanto entrare. Ma io sono del parere che se vai in PMR muri la 27, per cui preferisco stare il 27, mi sentono tutti quanti, in PMR c'è chi ti sente, c'è chi non ti sente, perché io antenna esterna non ne ho mai montato perché non voglio avere problemi e non mi piace averla, ma non me ne frega nulla, dai. È una frequenza che è una frequenza giocattolo per me. Poi c'è chi la prende più seriamente con la frequenza e ciccia, io non riesco a affezionarmi a quel tipo di frequenza. È meglio qua, almeno la 27 si ripopola e siamo qua, tutti qua ci sentiamo, cosa. Gli altri, quelli che sono con l'antenna esterna, certo si sentono, però tu a volte non riesci a arrivare da certe parti e ti gira le scatole, non puoi modulare con tutti, capito? Non so se avete detto il cammino, vediamo un po' di cammini. Sto mangiando. Mangia che si ragni. Vabbè, io mi devo aspettare 5 minuti che devo andare in bagno, dai, datemi 5 minuti, aspetti. No, vabbè, io mangio adesso perché dopo andate a fare la spesa e quello che ha comprato un po' di uva me la sono mangiata, capito? E niente, quindi mi hai detto oggi, già ne hai fatto comunque i collegamenti, poi mi avevi detto anche forse ieri che era con questo camionista che era in Ungheria, ho capito, ho detto peccato che non ci riesco ad arrivare a due piedi, la cosa che mi dispiace di più per questo è perché mi piacerebbe, perché da quanto so ci sono molti cibi a due piedi. Te l'ho detto a Castel Sardo, il problema è che non c'è nessuno, ce l'ho davanti e che è davanti al mare, però non c'è nessun CB a quanto so. E te l'ho detto più avanti dovremmo andare in una di queste città e fare quella cosa con Gianni. Ho capito, sì, è quello lo svantaggio per essere radioamatori. Intanto devi sapere di elettronica e di queste cose, però poi quando vai a parlare, molti parlano in inglese, se non hai la parlantina e soprattutto inglese. Ho capito. E però a proposito sulla simmetri, so molto che in fonia parlano poco, come hai detto tu, di mattina o di domenica, però molte volte si parla soprattutto anche in digitale, cioè, poi per ascoltare servono antenne fatte apposta per quella banda, non è che puoi usare una mantova come quella per la 27. Io sono rientrato. Tappa, dai, questo qui è l'Intec, come sta uscendo? Anche di segnale voglio sapere. Che non sta una sala, l'ho mai provato. La stazione è base della Intec. Bene, già, Santiago 9, Radio 5. E abbondante, riuscite ad arrivare anche a 9.10. Pensavamo che ti eri perso al bagno. No, dico la verità, mi è venuta fame, ho fatto mezzo panino con la Nutella. Ah, bene, avanti class. K. Allora andiamo bene, dai, la radio, com'è, amplificata, bella? No, ce l'ho bassa, non posso anche alzarlo, guarda così, 1, 2, 3, prova. K, dai. Questa qui è la famosa Intec. Ho messo anche, Riccardo, ti ho messo le luci blu, un sacco bellina. Ho capito, e anche io ce l'ho un baracchino con le luci blu. Ma questa è Intec. lo so, l'ho vista bella. Prima cosa aveva, le luci gialle? E un bianco sporco era. Non ho guardato perché è tutto illuminato, tutto blu. Anche le manopole sono blu, sono quanto illuminato. Oh Gianni! Il mio c'ha tutte le manopole illuminate, non fluorescenti, ma sono con le lampadine interne, con le LED, tutte illuminate con le LED blu, lo smitter è blu, i canali sono blu, poi quando tu parli diventa tutto rosso. È bello così, però era quello che è sempre quello che ha lo pen sopra. Kappa. Ho capito. E un'altra cosa, ma Lupo Grigio ha fatto QRT o ce lo siamo dimenticati? No, l'ho chiamato e non ha risposto. Probabilmente aveva freddo e se l'è entrato in casa. Ho capito, avanti qua. Ma io ricordo sempre bene, faccio la radio di sempre bene, poi il resto, Conta poco, là, E adesso tu a me come mi ascolti, ho abbassato la potenza, guarda, come mi ascolti, 1, 2, 3, prova. E va bene lo stesso, là, tranquillo, va bene, là, così è... Sì, ti ascoltiamo bene, non so, io perlomeno ti ascolto benissimo, uguale, dai, se non guardo il mister non mi accorgo mai con questo è abbassato, perché la radio è sempre bella. Anzi, se devo essere proprio preciso, se abbassi leggermente il microfono di radio arrivi ancora più pulito, adesso è molto più chiara. Dove te l'è fatta la stazione? Sopra nella stanza di cui? Sì, anche io faccio così, quando porto giù il cane mi porto il portatile, a volte ascolto, quelli che parlano, a volte entro anch'io qualche volta, ma non sempre, dai, faccio più ascolto che altro. Ehi, un attimo faccio questo correttivo e così vado anche a mangiare, se mai già ci sentiamo dopo. Ciao, buona carica. Diciamo che io ho proprio entrato di notte, prima l'accendevo ma poi ho paura di disturbare i vicini e questo con l'altro e mi visto di entrare, capito? Anche se gli metto le cuffie. C'è qualcuno che vuole entrare avanti? No, forse era la roba di propagazione. Sì, ho capito. Io sul 45 vado solo d'estate, poi non vado ad ascoltare perché c'è Muriana e basta lì. Per entrare è un casino. Lì è la legge del più forte, e adesso perché c'è poca gente. Ma lì è la legge del più forte, chi arriva più forte passa. Tipo Radio Killer che quando parla non si sente più nessuno. Ci sono certi che usano 1220, mettono in parallelo due lineari da 600, escono con 1220, immaginati dal cane. Ma io ne vedo sempre uno che è simpaticissimo, sta sempre ridendo, che è grosso, è molto robusto e c'ha una voce possente, proprio quando parla, parla con questa voce possente e anche l'apparato deve essere modificato veramente bene, perché esce molto bene l'apparato suo. Beh, nominativi. Ma Gianni ci farà domenica. sei Marco sempre, dai, mi stavo rilassando qua, stavo ascoltando. Sì, ci hanno tutti i nominativi folcloristici, tipo Peppe Cinque Bossoli, credo sia lui, Cosio Calibro 9, l'altro Gassolano, insomma, un nome da garanzia. E il lineario misto di peggio, ho visto anche un auto costruito, credo fosse autocostruito da 4 kW, roba allucinante, che dice che per farlo funzionare dovevi raddoppiare o triplicare gli alternatori del camion e mettere batterie aggiuntive, cioè devi modificarti tutto l'impianto elettrico del camion, è una cosa allucinante. Ehi, ehi, ehi, caspita, potenze importanti, lì ci vogliono antenne di un certo livello, cavi, lo stesso, anche PL, secondo me usano quei PL grossi, quelli enormi, adesso non ti so fare il paragone, se non addirittura saldato direttamente il cavo all'interno del lineare. Insomma, va bene, poi bisogna vedere se questi 4 kW sono reali o di picco, perché avevano spiegato che il picco in AM è molto ma molto relativo, diciamo che è uno specchietto per le allodole, la lancetta sale molto modulando, ma alla fine poi non sarebbero reali. Avevo visto un Francesco un video di Francesco Lunarossa che spiegava un po' come l'andazzo, però io non me ne intendo molto, quindi non posso metterci bocca. Doppio room, ci sei ancora? Sei sparito? Ma o gli è mancata la luce al doppio room? Io ho visto qualcosina su YouTube, qualche spiegazione sommaria, sì, devono modificare, mettere due alternatori per caricare più batterie, se no il normale impianto elettrico più di tanto non ce la fa, sono cose mostruose lì, cioè immagina anche i soldi che avranno investito su quel tipo di stazioni mobili, se vogliamo chiamarle così, mamma mia, ma poi il rischio è allucinante, metti che a un posto di controllo trovino il tutto, come va a finire? Vabbè, vediamo se Gianni rientra, se no anch'io chiudo, dai, ero all'ascolto, mi stavo rilassando nel dopo pranzo, eccetera, dai, Gianni si è rientrato? Ho mancata la luce davvero, va bene. Riccardo è andato a mangiare, ho sentito, stavo già mangiucchiando prima, mi è andato a mangiare, quello è praticamente l'aperitivo. Oh, chiodo. No, c'è ancora gli antipasti. Scusami, antipasto volevo dire, no aperitivo, e anche l'aperitivo c'è, poi l'antipasto e poi il pranzo, come faccio io? Sono sempre magnendi, e così dai, a ratte diciamo, a più ondate ricca. Poi prima hai detto rimbambito, e lascia perdere, io venderei l'anima al diavolo per tornare a avere la tua età. Ho capito, vabbè, non mi ricordo più nulla, in realtà sono veramente rimbambito, comunque aperitivo, prezzetto e patatine. Ottimo. Vabbè, si dice così, ma anch'io comunque, a parte io sono alla soglia dei 50, ma la mia memoria un po' sta cominciando a non essere più quella di un tempo, io non l'ho mai allenata quella memoria, capito? Sono molto alla mina futu. Come va, è così, dai. Ricca, io quasi ero all'ascolto, però chiudo, mi devo completare la roba al computer che ancora non ho completato, e quindi saluto Chiodo Roginitto, Gianni si è ancora all'ascolto, Nicola si è all'ascolto, Riccardo, tutti quelli all'ascolto, lo faccio prima. Dai, sentiamo, buona serata a tutti, buon proseguimento e alla prossima, ciao. Vai Riccardo. Va bene, ciao Marco, buon correttivo, buon lavoro al computer e ci sentiamo alle prossime. Avanti Claudio per i saluti a Marco. Eia, una domanda a Riccardo, se ci può dire. Ricca, che apparecchio è questo? Perché ti sento abbastanza limpido, bello chiaro, a differenza di altre volte in passato che eri o strappato, uscivi a scariche, o cupo. Questo è gira il migliore di quelli che ho sentito negli ultimi mesi. Vai Ricca. Positivo Marco, sto usando il Midland 78574, modificato qualche modifica, alla lampadina, e sto usando con un microfono preamplificato con una batteria da 9 dell'Alan F16. Ah, l'F16, buono, veramente chiara. non c'è nulla di brutto, né timbriche strane, né barattolo, né acuta, è ottima. Quello tienilo conto, quell'apparecchio, quel microfono, è una buona accoppiata. Ok, di nuovo rinnovo i saluti, riprendi chiodo, buona serata, buon proseguimento. Positivo, Marco, lo saluto un'altra volta, gli auguro di nuovo un buon corretti e niente, avanti di nuovo a te Claudio, ma adesso non c'è più nessuno, vediamo dopo se entra qualcun altro. Ehi, adesso questo 78574 che hai anche tu, più avanti me lo vorrò modificare con tipo scheda per gli Alan 48 che più o meno è sempre della stessa fabbrica, quindi vorrei mettere tipo quelle schede a 120 canali. Ma questa è una cavolata, le ho trovate, c'era uno che lo stava vendendo nuova, una tipo 50 euro, ma era buona, era di quelle professionali, se no una normale così costa 30 euro, l'ho trovata anche. E positivo, lo so che alla fine cosa usi, il canale 10, il canale 23 per fare un po' di corseo qua tra gente di Sassari e provincia, però no, di ex ne fai pochi, devi andare su i canali un po' fuori 45 o 35. E ho capito, c'era uno che forse voleva entrare, avanti chi è che voleva entrare? Boh, se vuole già entra, è sempre ben accetto. Mi stavi dicendo quindi Claudio? Ho capito, sì, sono belli, poi non so tu, ma tipo, come regalo in Natale già te lo puoi fare quello col 3 centimetro, che è bello, mi hai detto un sacco di tempo che le vite costavano un sacco di soldi, però non si può spendere 700 euro per Ho capito, c'era uno che stava fischiando, avanti chi è che voleva entrare? Quindi su questo baracchino stavo dicendo bello. E ti volevo chiedere un'altra cosa, se vabbè che adesso Gianni non c'è, ma ti volevo chiedere il toccai com'è andata, lo sta finendo? Ho capito, sì, comunque questa aveva un problema al clarifi che praticamente non sono in USB tipo sul 3.5, vabbè che sul 3.5 questa non ci va, però in USB se devo centrare una persona non riesco a centrarla perché è come se non avessi clarifi. Ho capito, va bene Cla, io da chiudo che così mi guardo un po' di TV e poi uso un po' il telefono e anche mi corico perché domani ti pare appena entrato in scuola un'altra verifica, capito? Quindi studio anche un altro pop, già prima oggi quella di inglese e domani quella di matematica e sai che matematica è difficile, quindi ti saluto 73, semmai già ci sentiamo via messaggi. Ok, ciao Claudio, un saluto anche a tutto il tuo correa familiare 73 più 51 e alle prossime, già ci aggiorniamo via telefono, anch'io faccio correttivi. Se mi sei bloccato non pensavo fosse l'apparecchio, perché adesso si è staccato qualche chilo, e l'altro si è staccato qualche chilo, questo come va, basta di radio? La radio normale, non è né troppo alta né troppo bassa, una radio normalissima già. È interessante che funziona l'apparecchio, pensavo che fosse l'apparecchio, invece è il microfono, là. Sicuramente si è staccato qualche chilo. Riesci a vedere come si arriva, però sta folgata, c'è ok. Okay, non ti preoccupare. Dai, tu fai la prova che qui c'è, tu già portare il cane che stavo uscendo, dai. Prova io che ti voglio vedere. Sì. Prova io, parla. 1, 2, 3, prova a vedere com'è. 9.15, ho aumentato i 5 punti. Va bene adesso. Sì, ma era 9.30 prima, anzi, 9.30 eri. Non so scherzare. Cosa vuoi che ti dica già. Però ho aumentato anche da altre parti anche. dai. Oh, io ci ho messo tutta la mia buona volontà, più di questo non posso fare. Meglio, va bene, però potresti magari potresti trovare il punto dove c'è più forte. Vabbè, comunque già va bene lo stesso, dai. Ci sentiamo, altro che sto facendo giù il cane, dai, ciao, ciao. Buona cena quando la fai, ciao. Che già fatto. Io no, ciao. Guarda, Cicci, Anto, vai a vedere se secondo te è meglio questa, questo è il secondo passaggio, oppure quello di poco fa la radio, quale ti sembra più forte? Ma si assomigliano molto, si assomigliano. Uno è il 430 e l'altro è un'altra radio. Lo so, in cuffia non riesco a capire qual è la migliore, microfoni uguali, MC60 e MC60, anche questa funziona bene, no, non ci sono problemi, 430 è sempre andato bene il mio, poi quello degli altri non lo so. Va bene, KK, quindi ti ho detto, l'antenna dove l'hai messa? Sempre nello stesso posto oppure hai cambiato posizione? Allora, è sempre lì, però l'ho girata, perché mi decreava stazionario. L'ho girata per quello, capito? Perché praticamente io mettevo il radiale, lo mettevo verso questa parte, non c'era perciò di regolarla. Il radiale l'ho girato completamente, sparite le stazionarie. Non ho più stazionarie, no. Ho fatto un bel lavoro, uso gamba e denti, manco si muove questa cosa. Il radiale, praticamente il radiale l'hai girato a 45 gradi oppure l'hai girato completamente da destra verso sinistra? Girato completamente. È cambiato dal giorno alla notte, è aumentato tantissimo, molto bene, va veramente molto bene. Che cappa, mi sa che ha aumentato un po' quelle tutte le parti e poi l'ho messa in alto, cavolo, mi sono messo d'impegno, detto, io questa cosa la devo risolvere, anche ero praticamente io. Ho preso la scala, l'ho cazzato e l'ho messa a posto. No, va bene, alla grande Anto. Sei 5, 9 più 10 prima, adesso sei 5, 9 più 15 e quando attacchi vai addirittura quasi a 25, sia sul 430 che con l'altro K più grande, capito? Infatti volevo vedere il segnale se era uguale, ma sia uguale anche qua sul 430, quindi vai bene alla grande. Sì, ti ho mandato la foto che l'ho fatto da Giumi, adesso risulta così il risultato. E adesso la guardo. Ah, ecco, ho capito. Ho capito. Vedi che va molto meglio. Sì. Va molto meglio. Alla grande. Sì. Andava bene anche come la prima, Anto. No, così va molto bene. Molto bene. Rispetto a prima. Ma ieri notte era bassa, perché poi mi sono rotto di palle e l'ho incazzato. L'ho messa così, ma adesso che ho sollevato e l'ho messa al punto giusto, non c'è per nessuno, non ce n'è. Va bene, KK. E lì vedi, devi cercare di agganciarti un'antenna per il PMR, tanto lì sotto vi sono quelle staffe, e così non hai problemi, capito? Arrivi bene a tutte le parti, anche in PMR, tanto come vedi stiamo usando anche quella frequenza, perciò... Con la calma, piano. Adesso ho fatto tanta fatica per mettere a punto questa, poi... La boomer è una bella antenna, solo che è maledizione, vuole tarata, perché se non la tari bene ti gonfia le palle, cioè ti rompe le scatole, ti fa di capo. Poi l'ho capito dopo io cosa ci aveva. Sì, ma io l'ho sempre detto, la boomer è un'ottima antenna, solo che quando si piazza quel radialino piccolino deve essere centrato almeno a 45 gradi come apertura e poi deve essere puntato praticamente a nord, come hai fatto tu. l'apertura un po' su tutto Sassari, perché se tu per dire la punti a sud non ricevi nulla, il segnale ti chiara tantissimo, invece puntata a nord-ovest va molto bene. Come l'hai messa tu, Anto? Ottimo, ottimo, va bene. Ok, meglio così, dai, almeno riesci a farti due chiacchiere santa pace, no, non hai problemi e niente. Qua sei fortissimo, segnale è uno dei più alti, assieme a quello di Marco, arrivi molto molto forte, va bene. A differenza di come arrivavi prima quando eri a Latte Dolce. Vabbè, non ce l'avevo sul tetto a Latte Dolce, però già mi va dentro in Roma Tese. Adesso qua, sono soddisfattissimo, contento pure, contento, sto guardando ogni tanto per vedere se tutto a posto, funziona con una meraviglia. Poi cazzo è successo che questo apparecchio ha dato, mi si è azzerato tutto, non mi ricordavo più come dovevo fare, ho guardato il manuale, devo tenere il pulsante rosso, devo tenere spento, il pulsante rosso riaccenderlo andava, lampeggiava subito e c'era la funzione per metterlo a posto. Infatti gli ho messo, perché è europeo, capito, gli ho messo la banda giusta, adesso mi dà anche canali alfa, tutto. E finalmente l'ho sistemato, evviva l'Italia! Evviva l'Italia, evviva l'Italia, già va bene. Intanto bisogna mettersi a fare, io lo stesso, quando devo fare le cose ci metto impegno, perché sennò è un casino, non fa. Mi ha fatto incazzare, però ci sono riuscito io. E va tu. No, ho visto la foto, va meglio della posizione di prima e poi il segnale è aumentato, quindi sicuramente hai fatto un bel lavoro. Non è poco, no, 9 più 15. Cazzo, per l'antenna che non è poco, no? Infatti a Luca gli ho detto. La boomer è una signora antenna, però stai attento come la piazzi. E anche rompe un bel ricatto lì. Ci sono tanti segreti nella boomer, anche mi hanno insegnato anche. Mi hanno detto anche di metterla un po' più giù vicino dove a toccare la massa bene per riuscire a fare più massa possibile. Mi hanno detto un sacco di cose. Sì, è un'antenna che deve lavorare bene, deve essere perfetta, perché se non è perfetta non hai risultati, capito? Soprattutto l'apertura del radialino deve essere a 45 gradi perfetto, se tu lo sollevi più in su o lo abbassi troppo in giù non va bene, deve essere 45 gradi perfetto a squadra, capito? Ad angolo retto, per farti capire, e poi deve essere posizionato a nord-ovest, perché se tu lo metti da un'altra parte, su Sassari non lavora, capito? Lavora il riflesso l'antenna. Lo so. È la zona di giù un pochettino magari, ma adesso penso che abbia migliorato anche giù, non lo so. Adesso vabbè, a me si è salito il segnale, adesso magari devi vedere agli altri quando li senti, capito? Vabbè, dopo c'è non sta entrando più nessuno perché insomma la gente va al lavoro, alle scuole eccetera, ma domani magari facciamo qualche prova, senti, prima eravamo sul 20 perché qua c'era un altro QSO, eravamo sul 20 un po', abbiamo fatto due chiacchiere, è entrato anche Giulio. Niente, quindi se entravi magari facevamo, chiedevi due controlli, dai. Ma purtroppo io stavo lavorando, e cosa va via? È vero che oggi è lunedì, cazzo, sono convinto. Meglio, perché siamo sentiti ieri, capito? E quindi vabbè, oggi è lunedì, è chiaro che tu esci anche tardi. E vabbè, avevamo io Luca, che siamo tre pensionati, poi tratto Giulio. Avevo fatto due prove, due stronzate, due reggiate, nel 20. Qua c'era, ti ripeto, un altro QSO, quindi non siamo entrati a disturbare. Va bene, lasciala così, Anto, puntella come dice qualcuno, e lasciala stare così. Non la tocco più, da così. Se non fate che cosa rubento, non la tocco più. Ho avuto un po' di vasellina nel rubiella, come mi hai detto tu. Io c'avevo il grasso di vasellina, dillo a Luca e a Luca a me. quando ho staccato i PL dai connettori delle antenne a vedere com'erano, lucidi, cosa cazzo metti vulcanizzante, che rovina tutto, basta che metti un po' di grasso, l'acqua non si attacca. Ho detto bene, capito, l'acqua non entra, era lucido dentro, come il giorno che l'ho attaccato, ma lucido, fuori chiaramente c'è il grasso, quindi va pulito, capito, adesso me le devo tutti pulire, i PL, perché i cavi li ho tutti conservati, e va bene, però riserva moltissimo, rimane pulito all'interno, non c'è umidità, non c'è niente, la mania, ragazzi, vulcanizzare BL, ma lo devi vulcanizzare, il grasso ci va sul PL in modo che l'acqua scivoli e non attacca, vulcanizzante poi vai a toglierlo, rimane tutto incollato, tutto gaggato. Non limo ma porta a me una volta, in un'antenna, in chi trasforma che va ginocchio a casa, nel PL ci ho dovuto buttare che mi ha portato un limo, l'avevo tutto vulcanizzato, vado, ha fatto retto bene, ma posso chissà cosa vedi. Tanto il grasso è buono, cioè che quando piazza la mantola mette il cappuccetto, quel cappuccetto si stagna l'acqua dentro, capito? Io l'ho smontato a mano, con lo straccio, perché se no mi scivolavano le mani, con lo straccio, l'ho aperto, era lucio, ma lucido, però me l'ho fatto vedere a Luca, vai dare BLM a vedere se vanno in ossido, perché la cosa migliore è quella, perlomeno a me mi hanno insegnato così, poi c'è chi vulcanizza, che ognuno fa quello che le piace, non futta sai, io uso il grasso senza cappucciare, senza vulcanizzare niente, l'unica cosa che devi vulcanizzare è le aggiunture delle antenne, ma i cavi e i PL non vanno vulcanizzati. Io non ho trattato a dubbio di questa roba, fidati. Dalla volta che ha posto l'ulimo e cosa mi sono informato bene, poi me l'hai detto anche tu. Non ne ho più utilizzato, sempre il grasso di vasellina. Qualsiasi tipo di grasso va bene, qualsiasi tipo di grasso. Basta tu riempi bene il PL di grasso e fai una bella copertura al PL, stai al pulcetto che l'acqua non entra, scivola. Capito? Mentre invece nel vulcanizzante, tra il caldo e il freddo, il vulcanizzante, che ne dica non spacca, qualche filatura la fa sempre, perché dilatta, poi stringe col caldo, capito? E l'acqua passa, manco l'ago passa dove entra l'acqua, capito? E passa oggi e passa domani, con i grandi temporali si ossida tutto. Quindi è meglio sempre il grasso per fare queste cose. È chiaro che se poi devi mettere un barilotto e giuntare due cavi con un barilotto, le dai il vulcanizzante prima, poi lo stringi bene con un altro isolante buono e poi le dai una passata di grasso sopra, è ancora più eterno. Sì, ma io dalla volta ho utilizzato sempre quello, la formula smontata c'era il grasso, c'era, l'ho pulito bene prima, cazzo, BL che ho messo, nuovo ne è uscito, perché un po' di tempo l'ho tenuto a figlia due, vai no, cioè, e tutte le cose, non c'è neanche ossido, perché l'ho fatto bene, io l'ho fatto. Non oscila, tu vai tranquillo che già ho fatto gli esperimenti. Sì, ma solo che la gente non vi crede. Vabbè, ti ripeto, io la mia esperienza me la sono fatta così, guardando agli altri, e adesso io faccio così, devo stare a girarmi le balle. Va bene Anto, dai, io ti lascio che vado a mangiare un boccone, se coincide a dopo, altrimenti se ho qua nel 10 o nel 20 non siamo, vai, o nel 10 o nel 20, il 23 l'abbiamo lasciato all'altra greffetta, ok? Ci aggiorniamo Anto. Yeah, ok, ciao Cla, ce la risentiamo. Ok, buona cena. Ciao Anto, ciao, se coincidi a dopo, dai, se non c'è niente in TV ci sentiamo dopo, ok? Ciao. Ok. Prova adesso, guarda. Fai un bel passaggio. 1, 2, 3, prova, guarda, prova radio, 1, 2, 3, 1, 2, 3. via, chiudo da. Prova. Poi ti spiego, guarda adesso. Oh, la prova a parlare tu, Marco. Ehi, ciao Cla, sembri, no adesso ci è uscito già, ma in certi momenti sembra che tu sia come in banda laterale o di splatter, non ho capito il perché, fai un altro passaggio adesso. Allora ti spiego, questo apparato qua quando tu lo accendi succede questo, che praticamente va sul 9, tu lo devi mettere sul 10 e poi cambiare le bande, sino a quando arrivi è così, è fatto così da come dalla casa, è così, capito? Eia, ho capito, si accende sul canale di emergenza, tutto lì, eia, c'è anche Claudio, me, e così ti conferma che stai uscendo bene adesso. Infatti poco fa non capivo chi era. No, perché questo qua, sono al buio, stavo cercando le bande, per quello che mi sentiva. Ma vabbè dai, il microfono è a posto, io sto chiudendo qua, dai. Ci sentiamo ragazzi, se vi volete trattenere, trattenetevi, io sto facendo la porta del cane, dai, stavo facendo un lavoro al microfono e quindi ho tardato un po'. Ehi, ehi, dai, l'importante è che funzioni adesso, poi io quelli spinotti lì, mamma mia, mamma di turchi, guarda ne avevo preso due per qualche apparato, per microfoni di ricambio, mamma mia, mi sto già sudando freddo a pensare di saldarli, non ci vedo più, mi tremano le mani, tu non c'ho pazienza io a saldare, vai Claudio. Ciao Gianni, con chi sei Marco, scusa? C'è Gianni qua, è buh, no, era, sono entrato perché riservi buon controllo, già, oh, Claudio, non c'è nessun altro, credo. No, no, io mi sto preparando per andare a prendere mia figlia al lavoro, dai, ci sentiamo dopo. No, era un ascolto qua, stavo facendo il collo, non capivo chi era, poi mi hai detto tu che era Gianni. Ci sentiamo dopo se coincide, se no domani. Ciao Marco. Vabbè dai, ci sentiamo Claudio, ciao Marco, che chiudo. Ancora non hai portato il cane? No, stavo facendo un lavoro Claudio, adesso lo può. Ehi, ehi, dai, ciao, ci sentiamo dopo se ci siete, a dopo, ciao ciao. Ciao ragazzi, ciao a tutti, dai, ci sentiamo dopo in migliori occasioni, dai, che ho portato, adesso mi accendo la TV. Ciao ciao. Ciao ciao.